Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica da Stefano Gallarini, Il riposo del guerriero in versione estiva, pronti anche oggi con le parole che fanno parte dell'estate. E ho pensato ai personaggi, perché d'estate in molti posti siamo un po', non dico a caccia di VIP, che è fin troppo, però curiosi, no, di capire se vicino a noi c'è un personaggio famoso, qualcuno che conosciamo per una ragione o per l'altra, non necessariamente un VIP, ma personaggi che in qualche modo abbiamo conosciuto, magari perché hanno vinto dei premi, abbiamo visto in una fotografia, perché hanno vinto magari qualche medaglia proprio alle Olimpiadi che ci sono appena state. Quindi personaggi che possiamo incontrare per caso, oppure quelli dei quali leggiamo i gossip sulle riviste scandalistiche che a quanto pare d'estate vanno a ruba. E di questo parliamo, di questi personaggi che hanno caratterizzato un po' l'anno: attori, scrittori, stilisti, artisti sicuramente da conoscere e molti da scoprire. We are the crowd, we're coming out, got my flash on, it's true, need that picture of you. Per introdurre la puntata di oggi dedicata in generale ai personaggi degli Gaga con Paparazzi sia la più indicata, anche perché questo video è uno dei video più visti, perché finalmente si è tornati un po' a costruire un film. Ci vogliono anche i soldi ovviamente, però lei a quanto pare ce li ha per farlo, meno male che l'ha fatto. Se non l'avete ancora visto, è impossibile ma può succedere, andate magari su YouTube a guardarvelo, la storia è anche molto molto carina. Antonio Mancinelli, ciao, buona domenica. Ivan. Ciao, buona domenica e grazie di avermi invitato. Caporedattore di Marie Claire, visto che ho scelto appunto Lady Gaga, è un personaggio che a te insomma in qualche modo incuriosirà da tanti punti di vista. Assolutamente, Lady Gaga è un personaggio che secondo me è uno specchio dei tempi, a prescindere dal fatto che possa piacermi o meno, e devo dire che secondo me è assolutamente da tenere presente non solo per le sue canzoni, che possono per l'appunto piacere o meno, ma anche per il suo modo di lavorare, nel senso che il fatto che lei, per esempio, a proposito di moda, abbia fondato una specie di, mi viene da dire, di cenacolo, no? Di persone che lavorano con lei, che le fanno vestiti, che si chiama House of Gaga. E per esempio, non so se avete visto, è stata pubblicata da molti blog la pubblicità del suo profumo che sta per arrivare, dove c'è lei completamente nuda che viene scalata da omini piccoli piccoli piccoli come se fossero dei soldatini, e sicuramente, come dire, estremamente interessante, nel senso che non è più la grande star come poteva essere Madonna, dietro la quale lavoravano, diciamo, di nascosto, grandissimi stilisti, grandissimi parrucchieri, grandissimi produttori, come tu mi insegni, grandissimi compositori, ma in qualche modo Lady Gaga fa la caposcuola di una specie di tribù, appunto, della sua casa, della sua maison, che è House of Gaga, e questo secondo me è anche un interessante come sintomo di un nuovo modo di lavorare, cioè si lavora tutti insieme, la squadra, lo si dichiara, c'è la squadra, poi c'è il caposquadra che ovviamente è lei. In questo, secondo me, è estremamente intelligente. Ecco, quindi non c'è un po' la CSI, no? Non c'è uno che... Esatto. Sì, c'è un po' un leader, però in realtà è la forza di c'è tutti un po' un leader, che porta... C'è quello che un po' in questo caso una front girl, non sì. Un frontman, ma viene dichiarato, non so, i vestiti li fa questo famoso Nicola Formichetti, che è uno stylist pazzo che le fece il famoso vestito di bistecche, non so se ve lo ricordate. Ma è un italiano? Lui è un italo-giapponese, nel senso che la mamma è giapponese e il papà è italiano, però è cresciuto e vissuto a Londra e adesso disegna una linea che si chiama Thierry Mugler. È completamente pazzo, ma fa dei vestiti estremamente interessanti, ma ha una visione estremamente interessante, e lei dichiara che ad esempio Formichetti l'ha molto aiutata, così come i vari registi che hanno fatto i suoi video, e addirittura ci sono anche degli scambi di idee su Twitter tra lei, Rihanna e così via. Quindi questo concetto di lavorare in team dove le idee possano circolare credo che sia veramente una grande novità, e mi viene da dire anche molto positiva. Sì, significa anche sicurezza di sé, nessuno invidia, cioè ognuno faccia il suo, ognuno fa il suo a modo suo, bene, ecco. Se poi ti posso suggerire qualcosa te lo posso dire, certo. Quindi mi sembra alle carte antropologicamente per potersi permettere, sì, questo anche ovviamente. L'età, parliamoci chiaramente insomma, allora di personaggi parliamo, ma non soltanto, in modo ovviamente, con Antonio dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Versione estiva del riposo del guerriero, sono i personaggi oggi l'argomento centrale della puntata. Sono con Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire e anche scrittore, non ho ancora detto, però insomma, dobbiamo dirlo, abbiamo parlato anche del tuo libro che era finalmente libero. Esatto, grazie di averlo detto, sì, insomma. Non mi ricordo quante donne hai descritto in questo libro che hanno superato i 40 anni però. 45 anni, sì. E sono 60 signore che ho intervistato e il libro sta andando molto bene, quindi siamo molto felici. È un bel libro anche da leggere d'estate, tra assolutamente l'altro. Deve essere letto d'estate, proprio perché ha la particolarità che, come dire, si può leggere anche così, aprendolo a caso, un po' come i King, no? Aprendolo a caso e leggendo e secondo il personaggio secondo che ti è arrivato che significa arrivato, qualcosa, forse significa qualcosa. Senti, torniamo magari poi a Finalmente Libere, però volevo partire, tu avevi citato Londra prima, sì. e poi nella puntata scorsa avevi citato la regina Elisabetta, sì. No? Ecco, ma, e quindi insomma Londra torna sempre per quanto riguarda la moda, cioè resta ancora un punto di partenza per leggere la moda in un modo diverso dagli altri. In Europa sicuramente sì, nel senso che poi ho anche fatto delle lezioni alla mitica St. Martin School, al Royal Fashion, al College Royal Fashion. E sicuramente i talenti inglesi, un po' perché sono meno legati rispetto a noi italiani, che ripetiamo, per fortuna abbiamo il Made in Italy che ci tiene a galla e così via, ha un discorso di produzione, ma perché comunque, come dire, non hanno neanche le strutture, le fabbriche, le industrie in grado di produrre migliaia di capi che possano essere venduti in grande quantità. E quindi questo, diciamo, è il lato positivo. Il lato negativo è che, come dire, ci sono dei grandissimi talenti che poi purtroppo poi per esprimersi devono espatriare, no? Pensate al fu purtroppo Alexander McQueen, ma anche alla stessa Vivienne Westwood, che è stata comprata poi nei fatti la proprietà di Renzo Rosso, il patron della Diesel. Nello stesso tempo, però, il lato positivo invece è questa estrema libertà di espressione, per cui porta questi stilisti, penso anche a dei nomi molto nuovi come Garrett Pugh, che sta facendo dei costumi meravigliosi per i balletti, a essere estremamente come dire, liberi e anche ad essere molto accoglienti. Se posso fare un altro nome, c'è questa stilista greca che si chiama Mary Katranzou, che ha messo a punto un sistema di stampa sulla stoffa talmente bello e talmente sconcertante, andatela a vedere su internet, sul web, perché sono dei vestiti bellissimi, che in qualche modo, pur essendo la greca, è diventato un patrimonio nazionale inglese e poi ovviamente credo che arriverà a sfilare anche a Milano. Quindi Londra sicuramente più che Parigi, che è sicuramente la capitale invece dell'eleganza, di tutto quello che è proprio il lusso di altissimo livello, e più ancora dell'Italia, che invece per fortuna è il paese dove la moda si produce, si vende e realizza anche dei fatturati, rimane un po' il laboratorio creativo europeo. Un po' come per la musica, no? È un po' come per la musica, insomma, è un po' il laboratorio creativo da cui poi molto spesso partono dei grandissimi geni e delle persone che poi in qualche modo cambiano un pochino la visione delle cose. Sono stato recentemente a Londra e devo dire che comunque da parte loro c'è una grandissima attenzione anche a tutto quello che riguarda proprio la cultura pop. C'è una bellissima mostra che, fra l'altro, non so se andrete a Londra, dura fino a novembre, sui vestiti da sera al Victoria Albert Museum, indossati da star inglesi, realizzati da certi inglesi. È una bellissima mostra anche sulla grafica inglese, quindi dai Beatles in poi, sempre al Victoria Albert Museum. Ed è interessante come delle istituzioni così ufficiali, come dei musei così importanti e togati, aprono le loro porte a dei fenomeni così popolari come possono essere la moda, la grafica e il design, come dire, quotidiano, tutti i giorni. Ma questo perché c'è sempre stata da parte degli anglosassoni e degli inglesi in modo particolare una grandissima cura, unita anche a una notevole dose di humor, e quindi che c'è sempre. Che c'è sempre, assolutamente c'è sempre, questa cosa mi diverte sempre molto, onestamente. Senti, quali sono i personaggi secondo te che più sono attenti alla moda in generale, quando si vestono, quando escono, quando nella loro quotidianità? Ma spaziando fra tutti, politici, cantanti, artisti. Una persona che mi viene in mente, che ho, come dire, verso cui nutro molta ammirazione, è Michelle Obama, che nel suo sembrare così una splendida ragazzona, alta e tante, ma anche molto intelligente, in realtà ha dato, sono state fatte addirittura delle tesi di laurea sui suoi vestiti, perché ad esempio lei sceglie volta per volta dei designer, non so, uno perché è di una minoranza etnica di tipo razziale, per cui cioè, lei indossa lo stilista, scusate, un abito dello stilista thailandese che magari è presente in America, oppure di minoranze sessuali, oppure di minoranze politiche, o comunque c'è una grandissima operazione di immagine che, seppur non così evidente, lei fa, come dire, condotta, cioè esiste, con un, cioè, esiste ed è condotta con una strategia veramente politica, tant'è vero che all'inizio lei prediligeva alcuni stilisti italiani e poi a un certo punto ha deciso di non farlo più, di promuovere solo esclusivamente stilisti che vivono in America e lavorano in America. Ma è interessante vedere volta per volta i vestiti di chi sono questi vestiti, perché poi si va a vedere, sono sempre di in qualche modo di persone che appartengono appunto a determinate comunità, e lei le accontenta un po' tutte, e in questo devo dire che si dimostra essere una vera grande politica, come forse più del marito, chi lo sa, non lo so. Vabbè, però, comunque sì, è una bella strategia, ecco, un bel pensiero. Sì, una bella strategia, un bel pensiero, e quindi non pensiamo sempre alla gente dello spettacolo. No, insomma. No, infatti mi viene io in mente, preferisco raccontare gli altri, ecco, dei personaggi della politica o dello sport, per esempio. Ma, assolutamente, anche, non so, adesso a parte, come dire, i suoi più o meno successi nelle Olimpiadi, però un personaggio come Federica Pellegrini sicuramente ha rappresentato un po' uno snodo simbolicamente dello sportivo, da atleta pure semplice a personaggio che invece può dimostrare anche, no, di essere bello, di essere magari in punto di messo in grado di presentare delle trasmissioni. Quindi in qualche modo, a me non piace il verbo sdoganare, ma in questo caso va bene, appunto libera il personaggio dello sportivo da un certo tipo di casella, soprattutto della sportiva, penso anche alla Vezzali, sì, della sportiva, da un tipo di donna che era impegnata soltanto nell'agonismo duro e puro, ma che invece si concede delle ampie parentesi di femminilità con Magnini, ma anche insomma in generale con altri. Quindi questo è quello che piace. Cioè, c'è un politico, sì, invece, secondo te, che, o una donna politico ovviamente, che segue, insomma, è molto attenta o attento? Per quanto possa sembrare, ma anche lì un'operazione secondo me assolutamente voluta, gli spaventosi tagliere di Angela Merkel secondo me sono ormai un suo trademark. Devo dire che quando ho letto quello che diceva Nicolas Sarkozy, che era l'ex presidente, l'ex presidente francese, sulla Merkel, oltre al fatto che lui sa essere veramente perfido quando vuole, però si capisce che questa signora, che è sicuramente una signora intelligente, fa in modo tale che la sua percezione poi popolare sia quella di, tutto sommato, quasi una simpatica vicina di casa che ha il peccatuccio di mangiare un po' troppi dolci, di indugiare troppo al buffet, di vestirsi un po' con gli abiti dei cataloghi che arrivavano a casa, non so, queste cose un po' tristi. Non ci sono più, è vero. Non ci sono c'era più. Una volta era così. O i cartamodelli che c'erano nelle riviste delle nostre mamme. In realtà anche lì c'è assolutamente un'operazione politica, perché tutto sommato la sua percezione da parte di quello che noi chiamiamo popolo è quello, quando la si vede, di grande simpatia. Comunque somiglia a una di noi, poi arriva con delle stangate pazzesche. Ma questo è un altro discorso. Ma questo è un altro discorso. Però anche la scelta dell'abito che tra virgolette le può star peggio è che quello le può più stare giusto, peggio, e in cui, come o col dire, colore più improponibile, sì, però rientra in questo personaggio. Non so, ecco, tanto per fare dei nomi, non Carla Bruni non ha sicuramente, che è un'altra attentissima alla moda, ha dimostrato. Non potrebbe essere diversamente. Non potrebbe essere diversamente, visto il suo passato da modella, ma che ha saputo in qualche modo, diciamo in maniera opposta, anche lei interpretare veramente la moglie del capo di Stato. Anzi, c'è stato anche un momento in cui sembrava quasi una specie di Marie Antoinette, insomma, sembrava quasi lei la regina francese e il marito, appunto, il suo scudiero, il suo paggio, anche per questioni di altezza. Quindi, esatto, direi che proprio nella politica, più che nello spettacolo, dove comunque è già dato un po' per scontato, sì, che ci sia, certo, una grande attenzione. Infatti visto è meno anche, interessante, sinceramente. Visto anche, come dire, questa quantità di stylist che sono le persone che sostanzialmente vestono le celebrities, ci sia uno studio interessante di quel tipo di linguaggio, che è un linguaggio non verbale, che è rappresentato proprio dalla moda. Grazie Antonio Mancinelli, ci sentiamo domenica prossima. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Non so se Alessandra Tedesco sia una di quelle che si apposta per cercare di vedere i VIP di fianco. No, a questa mania. Pensa che anche da ragazzina gli unici autografi che avevo erano. Io non ne ho neanche uno. Io avevo quello di Gino Paoli, non so perché, e poi quello dei Duran Duran. Non vi dico come me l'ha detto, con degli occhi che che ancora brillano. Sì. Sì, l'autografo dei Duran Duran, veramente quello. Poi li ho toccati, capisci? Certo. Li ho toccati all'epoca, quando erano famosi, perché casualmente io fui invitata a Domenica Inn a parlare, parlo del 1986, dei ragazzi del sud, come erano i ragazzi del sud, perché insomma adesso è lunga la storia. Ero stata invitata a Domenica Inn con Raffaella Carrà e in quella puntata erano ospiti Duran Duran, quindi io dietro le quinte li avevo toccati. E quando uscii dagli studi della RAI, delle ragazzine che mi avevano visto ovviamente in televisione su Rai 1 hanno toccato me, perché sapevano che avevo toccato Simon Le Bon. Beh, come Remi, cioè, passi la cosa, certo. Sì. Così impazzite, ti abbiamo visto. Non lo diciamo perché esistono i personaggi, vabbè, i VIP che tutti conoscono, perché magari io un po' meno, però in generale li si conoscono perché le loro foto sono su tante riviste sulle quali magari getti comunque l'occhio. E invece sono tanti personaggi che non si conoscono, che però sono in qualche modo famosi o sono state la ribalta perché hanno vinto dei premi, soprattutto visto parliamo di letteratura con te e di libri. Beh, in di generale, me, come potete sempre solo parlare di libri, insomma. Per cui magari veramente sono i nostri vicini di ombrellone, ma non lo sappiamo e lo si scopre solo chiacchierando. No? Ecco, io sfido chiunque a descrivermi in questo momento Alessandro Piperno, che quest'anno ha vinto il premio Strega. Una domanda così, agli occhiali o non agli occhiali? Non lo so, ora la faccio da pappagallo, perché ci sono due pappagallini che, ecco, i due inseparabili appunto sulla copertina dei libri, ci sono anche le vetrine delle librerie. Ma sì, ma poi in fondo uno scrittore non deve essere un VIP, non deve essere una rockstar, come dice Piperno, infatti, deve essere uno scrittore, deve scrivere dei bei libri, questo è richiesto a uno scrittore. Poi se sappia stare in pubblico, fare la rockstar o meno, questo è un altro paio di maniche, se lo sa fare bene, se no ci accontentiamo benissimo del fatto che abbia scritto un buon libro. Ecco, ci sono scrittori di cui comunque conosciamo sicuramente le facce, ma della maggioranza no. Per esempio Piperno è uno di quelli anche che non fa vita editoriale, non frequenta il mondo editoriale, è sempre molto riservato perché non ama appunto stare in mezzo alla gente, fa pochissime o forse nessuna presentazione pubblica dei libri. Lui dice: io ho scritto questo libro, adesso lo affido al pubblico, è il pubblico che mi legge che decide se gli piace o no, non faccio diciamo campagna pubblicitaria. Ecco, è innegabile comunque, adesso non possiamo, insomma è innegabile che la pubblicità serva in generale anche per quanto riguarda la lettura, perché viviamo in un mondo dove le cose le devi conoscere, anche perché sono tantissime, quindi sì, è difficile, certo. Cioè, al di là proprio della pubblicità in sé, ma pubblicità nel senso di far conoscere qualcosa che esiste. Tra l'altro la televisione in generale offre pochissimi spazi alla lettura. Sicuramente. E io ricordo A tutto volume, una bellissima trasmissione condotta da Alessandra Casella, che non c'è più, ma che riusciva a raccontare i libri finalmente in televisione, ma dopo di quella divertente. C'è stata qualche altra possibilità e poi basta, insomma c'è ben poco, c'è Marzullo forse la sera, molto tardi bisogna essere. Ecco, e quindi chiaramente gli scrittori si conoscono poco, però parliamo di scrittori che sono diventati popolari grazie alle vittorie dei premi. Allora, in questo caso premi. Piperno ha vinto. Era diventato famoso qualche anno fa quando scrisse il suo primo romanzo, che in questo momento mi sfugge il titolo, ma me lo ricorderò. E invece con questo terzo romanzo, Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi, ha vinto il premio Strega di 2 soli punti sopra Emanuele Trevi. E io sono molto contenta per Piperno, perché il romanzo mi è piaciuto veramente tanto. E tu, è grazie a te che ha vinto, diciamo la verità. Adesso stiamo svelando un segreto. No, non ho corrotto la giuria dello Strega, attenzione. Allora, tu fai gli amuleti e i talismani. Raccontiamola, ecco, bene, sì, diciamo che... Con le code di rospo, cos'è che hai messo nel talismano? Diciamo che ho portato fortuna nella mia vita a due scrittori. A Salvatore Niffoi, quando nel 2006 vinse il Campiello, perché gli dissi una cosa insomma prima della serata e lui vinse. E questa volta allo Strega. So che Piperno non ama stare appunto in mezzo alla gente. Sì. Così, e gli ho regalato un libro che aveva un significato per noi, per una chiacchierata che avevamo fatto sulla prospettiva Nevsky a San Pietroburgo, quando appunto lo Strega è andato in trasferta in Russia e gliel'ho regalato, gli ho detto: questo è il tuo, la tua coperta di Linus, il tuo amuleto per questa sera, tienilo stretto e vedrai che ti porterà fortuna. E così ha fatto, mi pare, no? Ha durante la premiazione, fortuna, perché ha vinto di soli 2 voti. Infatti lui mi ha abbracciato, baciato, mi ha detto grazie. E adesso ci sono gli scrittori che mi cercano, che vogliono non posso dire chi, ma c'è uno scrittore di un altro premio che mi ha chiesto: ma non è che per caso... No, ecco, non funziona, ecco, ricordiamo una cosa. No, non è che funziona così a comando. No, ma in generale proprio gli amuleti non funzionano se richiesti, no, o se fatti fare, bisogna riceverli in dono. Esattamente, per cui, perché funzionano. È stato spontaneo il mio gesto nei confronti di Piperno, perché insomma sapevo che non avrebbe gradito quella serata piena di gente, di flash, eccetera. Il mio era un pensiero da, diciamo, da amica, fra virgolette, insomma, era un pensiero umano, e poi si è trasformato in un amuleto e sono ben contenta. Adesso tiene quel libro, che non vi dico qual è ovviamente, ben in vista nella sua libreria. Senti, Inseparabili è un bel libro, l'hai letto? Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto veramente tanto. Un libro che sicuramente ha meritato di vincere, così come è molto bello il libro di Emanuele Trevi, Qualcosa di scritto, perché è un mix fra un memoir, un saggio e un romanzo sulla vita di Pasolini, e quindi si scoprono delle cose di Pasolini, ma soprattutto di Laura Betti, che era poi la sua musa ispiratrice, la sua amica, compagna di vita, ma non nel senso di... Sì. Ecco, non erano compagni, lo sappiamo, e che aveva un caratteraccio, insomma. Emanuele Trevi racconta di quando ha lavorato alla Fondazione Pasolini per fare tutto un archivio, insomma, degli studi, e lei lo trattava malissimo, lo insultava in tutte le maniere. Bel libro. Poi gli altri libri del Premio Strega... vi ricordo che c'è stato Il silenzio dell'onda di Gianrico Carofiglio, che pubblicato da Rizzoli, che è sicuramente il libro che ha venduto di più fra quelli del Premio Strega, perché lui, ecco, a differenza di Piperno, Carofiglio è un uomo molto comunicativo, riesce a stare in mezzo alla gente, chiacchiera, fa le presentazioni, è un uomo noto, lo ricordiamo, è anche senatore della Repubblica, è stato magistrato e così via. Poi c'è Nel tempo di mezzo di Marcello Fois, che è candidato anche a un altro premio al Campiello, che verrà assegnato il primo settembre a Venezia, naturalmente Radio 24 lo seguirà come ha seguito lo Strega, ed è un romanzo legato che parla molto del senso dell'identità. È un uomo che torna in Sardegna perché ha trovato un vecchio documento e scopre che lui è nato lì, quindi è alla ricerca delle sue origini, sostanzialmente. Non vi dico troppo, e vi dico solo che la seconda parte di un altro libro di Fois, che si chiamava Stirpe, è una saga familiare, insomma, particolare. E poi al Premio Strega c'è stata Lorenza Ghinelli, che è una ragazza veramente in gamba, è una scrittrice in gamba, 30 anni, l'anno scorso pubblicò Il divoratore, che era stato un caso editoriale per la Newton & Compton, quest'anno La colpa. Lei sa molto indagare sulla sofferenza, soprattutto dei bambini, dei ragazzi, ma per lei è molto caro il concetto di resilienza, cioè la capacità di superare una difficoltà, un dolore, e trasformarla in qualcosa di buono. Sì. Tant'è vero che ha tatuato sul braccio la parola resilienza, e ce l'ha tatuata in modo tale che lo veda lei, non che la vedano gli altri. Quindi è un ammonimento verso se stessa. Poi insomma ci sono i libri del Campiello, che appunto verrà assegnato il primo settembre a Venezia, e sono libri, questa cinquina, che in un modo o nell'altro, a cui io sono legata personalmente. Adesso vi spiego perché, insomma. Allora, c'è Marco Missiroli, Il senso dell'elefante, Guanda. Perché sono legata a Marco? Perché Marco lo segue da quando ha scritto il primo libro nel 2006, Senza coda, che vinse il Campiello Opera Prima. Poi ha pubblicato Il buio addosso, Bianco, e sono tutti libri che mi sono piaciuti, quindi io lo considero mio protégé quasi, e sono legata appunto allo scrittore. Giovanni Montanaro, Tutti i colori del mondo, parla di una donna che scrive una lettera a Van Gogh. E Van Gogh è uno dei pittori che mi piacciono di più. Io quando da ragazzina sono andata ad Amsterdam, tutti andavano a fumare, e io sono stata un giorno intero al museo Van Gogh, e tutti mi prendevano in giro. Esattamente. Perché ti prendevano in giro? È perché a Amsterdam, che... ragazzini, si va per divertirsi. Ma io posso dire tutto il che una cosa non esclude l'altra, comunque sia. Però ho fatto la parte della secchiona, che sono stata tutto il giorno a 20 anni chiusa nel museo Van Gogh. Poi c'è Carmine Abate con La collina del vento, Mondadori, non ridere così. E perché sono legata a questo libro? Perché parla di una saga familiare in Calabria, sullo Ionio, una collina, eccetera, eccetera, e questa collina si trova vicino al paese dove è nata mia mamma, Ciron Marina, in provincia di Crotone, quindi ho un legame personale, anche un conflitto di interessi anche con Carmine Abate. E infine, c'è Marcello Fois, di cui abbiamo già parlato, la Sardegna, in Sardegna vive mio fratello, i nipotini, quindi io sono molto legata a quella terra e ho appunto un conflitto di interessi anche nei confronti di Fois. E infine Francesca Melandri, Più alto del mare, Rizzoli, racconta la storia di un uomo e di una donna che vanno in visita al carcere dell'Asinara. Lei va a trovare suo marito e lui va a trovare il figlio detenuto perché terrorista e omicida. Perché sono legata a questo libro? Perché io faccio volontariato in carcere a San Vittore e il mondo dei detenuti mi è molto caro. E in questo caso lei l'ha preso come punto di vista quello dei parenti che vanno dei a trovare, carcerati, sì. Che è tutto un mondo particolare perché sono persone che non abbandonano quasi mai i loro cari anche se hanno commesso dei delitti efferati. Ma giusto così, si chiama affetto, eh? Si chiama affetto, amore, ma non sempre, a volte i detenuti con tutte le sue difficoltà vengono abbandonati. E in questo libro è molto bello il rapporto fra il padre che non capisce perché il figlio ha voluto fare quella che lui chiama rivoluzione, Brigate sì. Rosse, cioè siamo alla fine degli anni 70 dopo l'omicidio Moro, e il padre non capisce e si domanda in che cosa ho sbagliato. Quando c'è stato quel momento in cui non mi sono accorto che lui stava prendendo quella strada? Sì. Perché io non capisco che più poi è una figlio? Domanda che tutti i genitori si fanno girare, anche se non succede niente di così comunque la grave, fai la sbagli ecco, insomma da sì. Genitore, però è molto, anche se forse non c'è nessun errore poi alla fine, no? Spesso non c'è, no, magari non, esistono, no. Le personalità poi, le scelte sono anche indipendenti, l'ambiente, insomma il carattere, quindi non è che i genitori, anche se Freud dice che insomma sono responsabili praticamente di tutto, se stai ad ascoltare gli psicanalisti tutto dipende dai tuoi genitori. Esiste anche, vabbè, questo è un altro campo, non è il nostro, però la nostra opinione ovviamente a riguardo. Senti, volevo chiederti Alessandra, per fare l'avvocato del diavolo, per anno di premi, c'è, se puoi dirlo ovviamente, sì, un libro che ha vinto un premio importante ma che invece non ti è piaciuto affatto? Sì, posso dichiararlo? Sì. Mariolina Venezia, che vinse, non mi ricordo in quale anno, il premio Campiello, l'anno in cui era candidato anche Fruttero, che arrivò ultimo. E a parte Fruttero ultimo, va bene, ok, non era un grande libro quello di Fruttero, però secondo me non meritava di vincere, lo dico chiaramente. C'erano cose che avrebbero dovuto vincere secondo te in quell'edizione? Sì, in quell'edizione c'erano cose molto più belle e lì ammetto che proprio ero un po' arrabbiata, insomma. Vabbè, succede, anche perché io vivo molto sì. Poi il premio Campiello è bello perché veramente fino alla fine non sai chi vince perché c'è la giuria popolare, sono 300 lettori qualsiasi, dalla casalinga, l'operaio, l'imprenditore, il giornalista, che votano, e tu sei lì che ogni 50 voti sai, quindi anche noi in sala stampa siamo lì che veramente non sappiamo chi vince fino alla fine. Resta un mistero fino in fondo. Sì. Parleremo poi dei festival letterari, ce ne sono tanti a settembre, a parte il Campiello appunto che si conclude con il primo, premio, però poi sì, ce ne sono molti altri. Nella prossima puntata, ovvero domenica prossima, nel Riposo del Guerriero, sempre con Alessandra Tedesco, che saluto, ciao. Ciao, ciao a tutti. Il Riposo del Guerriero. Quando penso all'estate, appunto, dicevo, io penso ai personaggi, sia a quelli che si cerca di scovare, così camminando o guardando la spiaggia, uno spera sempre di vedere un personaggio conosciuto o di riconoscerlo, appunto, oppure, insomma, sono tantissimi i giornali scandalistici che vengono letti sotto l'ombrellone, allora magari dai una sbirciatina, anche se non ne sono affatto un lettore. Marta Cagnola, tu come te la cavi da questo punto di vista, invece? Buongiorno a tutti, negherò fino alla morte di leggerli tutti e soprattutto di essere minimamente interessata al gossip, proprio non mi interessa, non so niente di nessuno. E intanto il naso si allungava. È arrivato fino a qua. Allora, è vero, no? Che anche d'estate cerchi sempre, guardi, scruti le facce, perché o ritrovi i tuoi vecchi compagni, dici, ma questa persona assomiglia, e poi magari scopri che veramente è un personaggio che ha fatto parte della tua vita, oppure scopri veramente dei personaggi in qualche modo conosciuti o popolari. Sì, anche perché poi è sempre buffo vedere. Non sai dove vanno in vacanza, per cui te li ritrovi lì. Anzi, devo dirti che una volta ho incontrato nel posto meno atteso del mondo, al Metropolitan Museum di New York, Claudio Bisio, che era in viaggio di nozze, se non sbaglio, comunque lui era lì con la moglie, si erano appena sposati, e io stavo guardando dei quadri e ho sentito una voce, dicevo, ma la conosco. Questa voce la conosco, è un mio vicino di casa, e invece era Claudio Bisio. A questo punto ti proporrei di parlare un po' di questi personaggi, sì, che hanno fatto questa stagione di spettacoli, insomma, che hanno fatto grandi cose. Appunto, magari citerei proprio Claudio Bisio, perché Claudio Bisio, che appunto io ho incrociato qualche anno fa in vacanza a New York, secondo me è uno dei personaggi dell'anno per svariate ragioni. Vabbè, intanto è ancora in testa al Cinetel dell'anno, la classifica cinematografica, con Benvenuti al Nord. Quindi sì, ha fatto una doppietta non da ridere tra Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. In attesa poi di quello che farà la prossima stagione televisiva, perché ha lasciato Zelig, e quindi farà ancora qualcosa in televisione? Non lo sappiamo. Non si sa ancora nulla. E lui lascia tutto nel mistero. Mm. Sicuramente ha detto che si dedicherà al cinema. Prima fatica, già fatta la fatica perché sì, il film sta per uscire, è il doppiaggio dell'Era Glaciale 4, nella quale lui, insomma, si è divertito molto. Noi abbiamo avuto l'occasione di vederlo qualche settimana fa nell'anteprima di Lipari, di incontrare anche Claudio Bisio, che insomma ha confessato di essersi divertito molto anche questa volta. Ecco, ti faccio una domanda. Io non amo mai i personaggi in qualche modo conosciuti e popolari quando si mettono a doppiare un film, perché doppiare è una cosa, è molto difficile, sì, e molto spesso i film hanno perduto per dei doppiaggi fatti male da personaggi pur popolari, ma che a doppiare proprio non sono capaci. Però ci sono delle eccezioni, ne cito una, Renato Zero in Nightmare Before Christmas, io l'ho trovato perfetto, forse era perfetto il ruolo proprio del personaggio, ma è stato veramente e inaspettatamente dal mio punto di vista molto bravo. Altri invece che sono stati un disastro, non sono riuscito a vedere il film per quel motivo. Ah, com'è Bisio? Io trovo che Bisio sia davvero bravo, perché ti dimentichi che è Bisio. Ecco, perfetto. Cioè, fa il doppiatore. Fa il doppiatore, devo dire che nell'Era Glaciale 4 è un po' la caratteristica di tutti. Facile, perché gli altri sono Pino Insegno, sì, e Francesco Pannofino, e quindi quello sono fanno, due, ecco, doppiatori. Sappiamo, sì. E poi Filippo Timi, che effettivamente è il più riconoscibile, però comunque un bravissimo attore. Quindi, insomma, l'essere un bravissimo attore ti facilita nell'essere doppiatore. Invece, a volte, purtroppo, per ragioni spesso promozionali, vengono presi dei cosiddetti talent, perché ormai va di moda, sì, o cabarettisti o cantanti, però non è il loro, no? O signorine e signore dello spettacolo, che però non lo sanno fare di mestiere. Però purtroppo sappiamo che bisogna fare red carpet, le interviste promozionali. Ho capito, però poi quando vedi il film la stonatura la trovi, cioè, anche Simpson, sì, lo dimostrano, i Simpson usano spesso, hanno usato anche molti politici in Italia, con me negli Stati Uniti, ma anche in Italia, e alcuni se la sono cavata molto bene, ma altri sono stati davvero un disastro da quel punto di, sì, vista. Purtroppo sì, devo dirti che invece, ad esempio, nel caso parlavamo di Claudio Bisio, sì, io lo trovo irresistibile, perché si è proprio studiato il personaggio e ti dimentichi. Ha fatto il suo mestiere di doppiatore. Sì, sì, ha fatto punto, davvero il doppiatore. Bravo Bisio due volte, anche tre, no? Diciamo, e bravo Marco bravo Guadagno, sempre, che è il direttore del doppiaggio, che si è inventato tutto, perché sappiamo che i direttori del doppiaggio vengono citati poco spesso, ma sono veramente i grandi artisti del doppiaggio. Gli avevo dedicato una puntata intera del Riposo proprio a questi personaggi così che vivono nell'ombra, ma che sono poi le fondamenta di tutto. Vabbè, andiamo, sì, avanti. Altri personaggi, sì, dell'anno, come non citare Fiorello, perché Fiorello in realtà non si è visto tante volte. No, lui, lui si dosa, no? Lui ha fatto poco, ha fatto le sue serate del più grande spettacolo dopo il weekend. Prima aveva fatto tutta questa presenza imponente su Twitter, banalmente è riuscito a lanciare l'uso di Twitter in Italia, poi è sparito dalla TV e da Twitter, dalla radio. Giustamente. E secondo me si fa così, perché pulisce un po', no? Cioè, c'è tutta l'attesa su quello che farà. Chissà cosa farà e quando, perché non si sa. Addirittura si dice, no, non vuole più fare la televisione, vuole fare la radio, ma non vuole fare la radio tradizionale, vuole inventarsi una radio sua. Vabbè, non lo sappiamo. Lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo, per citare il poeta. E però c'è da dire che effettivamente lui quest'anno l'ha dominato. L'ha dominato negli ascolti, sì o no? Il grande dubbio. Ha fatto più ascolti Fiorello, ha fatto più ascolti il Festival di Sanremo? Perché purtroppo sai che i numeri si possono tirare come, sì, le coperte da una, sì, parte, dall'altra, e non c'è dove mai fa comodo, no? Dove fa comodo, e si possono dosare in qualsiasi modo. Bisogna anche vedere, a parte i numeri, ma chi ti ha visto, cioè l'età di chi ti ha visto, no? E io credo, sì, che Fiorello sia stato visto da un'età anche più bassa rispetto al Festival di Sanremo, che invece che quest'anno comunque è riuscito ad abbassare la media, quindi insomma abbassare la media media di età significa avere un audience più appetibile dal punto di vista pubblicitario. Certo. I però calcoli sono sempre, non entriamo in questo, sono ecco, sempre complicatissimi. Perché citavo Sanremo? Perché a gestire il Festival di Sanremo l'anno scorso, lo sappiamo, è stato Gianmarco Mazzi, che appunto ci teneva a dire che Sanremo ha fatto in realtà più ascolti di Fiorello. Gianmarco, sì, Mazzi, che però ha detto addio a Sanremo. L'anno scorso Gianmarco Mazzi che operazione riuscì a fare? Quella di portare Celentano a Sanremo. Sì. E Celentano quest'anno dove va? Sulla Rai. Oibò, no. Torna dal vivo all'Arena di Verona, legata ancora a Mazzi, ma andrà in onda su Canale 5, che a Mazzi è legata per via di Amici. Insomma, quindi è tutta una cosa molto complicata. Stai facendo dello spionaggio televisivo tu, ma no, lo sai. si sa, dai, nessuno scoop particolare. Il fatto è che comunque tutti stiamo aspettando questi concerti all'Arena di Verona di Adriano Celentano, perché Celentano torna dal vivo dopo davvero tantissimi anni, anche perché insomma un concerto dal vivo non sono i 20 minuti, 40 minuti di televisione, è un'altra cosa, e quindi siamo tutti curiosi di sapere cosa farà Adriano Celentano sia dal punto di vista del live sia dal punto di vista televisivo. E quindi manca poco, lo vedremo e chissà cosa succederà. Ecco, non sono un fan di Adriano Celentano, però sarei molto curioso di andare a vedere Sì, devo dire che mi piacevano molto le vecchie cose di Adriano Celentano. Io sono molto affezionata ai suoi musicarelli, al suo periodo rock. Poi negli anni, insomma, l'ho seguito un po' meno. Però davvero sì, sarà un evento che davvero varrà la pena, insomma, seguire. Cosa succederà invece a Sanremo? Si sa, insomma, Sanremo sarà di Fazio. Fazio ha promesso qualche novità, ma chissà. Anche la gabbia, insomma, c'è un po' una gabbia, insomma, mettiamolo, non è che... Non si può fare granché, dopo esatto, tutto ormai è un evento talmente storico e tradizionale che si può andare un po' con la fantasia, ma non tantissimo. Però insomma lì dobbiamo aspettare ancora qualche mesetto. Chiudiamo con un penseremo. Personaggio invece che così non c'è più, inaspettatamente. Purtroppo sì, appunto, Sanremo è stata l'ultima occasione per vedere Lucio Dalla. Ci ha colto davvero purtroppo di sorpresa la sua scomparsa. Stava bene, era felice, era contentissimo di essere a Sanremo. Pochi giorni dopo, un paio di settimane dopo, ci ha lasciato improvvisamente. In tanti lo hanno ricordato, quindi quest'anno dello spettacolo è stato inevitabilmente segnato dalla sua mancanza, dal suo ricordo, purtroppo anche dai gossip che hanno accompagnato la sua scomparsa e tutte le questioni ereditarie. Questo è il brutto dello spettacolo, ma insomma il bello dello spettacolo che in tanti hanno ritrovato, rivalutato, riscoperto e riproposto l'eredità di Lucio Dalla. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Su Radio 24 prosegue la versione estiva del riposo del guerriero, in questo momento con la nostra glottologa Francesca Dragotto. Ciao Francesca. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Allora, sugli errori stendiamo un velo peloso, faccio un esempio. O pietroso. Questi come si chiamano, questi errori? Allora, questi sono malapropismi, ne abbiamo parlato nel corso dell'anno, ma visto l'enorme numero di segnalazioni che sono arrivate da parte degli utenti, col fatto che si parla di utenti di lingua, ho utilizzato utenti, volevo dire ascoltatori. Vabbè, questa è la deformazione cosa. Professionale. Utenti radiofonici. Ecco. D'accordo? Quindi, visto l'alto numero di segnalazioni, io vorrei lanciare un appello, visto che siete sotto l'ombrellone, sicuramente sentirete altri malapropismi, continuate a segnalarli attraverso la pagina Facebook del Guerriero o attraverso tuttopoli.com. Ecco, per esempio, quando una persona ha degli amici intimi, no? Se tu fai il gesto per indicarli, avvicini le due dita, i due indici, no? Infatti per una mia amica quelli erano gli amici indici. Ecco, questa è un po' la stessa cosa. Questa non l'avevo mai sentito, te ne sono grata. Te la aggiungo io, perché c'è anche la gestualità. Io ho due amici indici, certo. Oh, guarda, sono rimasta senza parole. Sai che per far rimanere me senza parole ce ne vuole. Allora, alcuni utenti ascoltatori dicono: mi sono perso la ragione per cui si chiamano malapropismi. È il nome di un personaggio letterario, il personaggio di una commedia, sì, di uno scrittore vissuto inglese, vissuto alla fine del Settecento, di nome Sheridan, appunto, che aveva creato un personaggio, Mrs. Malaprop, il cui parlare era caratterizzato esattamente dagli amici indici, quindi dalla persistenza nella creazione di errori giocosi, però, perché molte volte questo tipo di errore produce un effetto comico. Sì, sono stati scritti anche tanti libri, no? Che li raccolgono, sì. Anche da, tra l'altro anche degli amici che fanno il mio stesso mestiere, che li hanno raccolti nel corso delle chiacchierate telefoniche in diretta con gli ascoltatori. E che dovresti invitare a segnalare a me o alla tua pagina Facebook i malapropismi stessi. Tra l'altro il tuo amico Stefano Bartezzaghi ha recentemente pubblicato un libro proprio sui su malapropismi. Questo. Sì, allora, sì. Citiamone qualcuno, ma fra quelli che ti sono arrivati, che ti hanno incuriosito di più. Ma tra quelli, alcuni sono ormai dei classici, tipo procedere a passo d'uovo invece che a passo d'uomo, oppure il latte parzialmente stremato, o arriveremo alle candele greche, che io stessa ho avuto modo di sentire anni fa, oppure per calende candele c'è una inversione di sillaba, per cui ci sta esattamente anche. E l'inversione è legata al fatto che la parola calenda suona strano. Qualcuno che ha più dimestichezza con i fiori dice arrivare alle calendule greche, pensando che calendula sia il diminutivo di calenda. E però appunto l'errore che si fa più facilmente è l'interversione, che è quello scambio che hai identificato, per cui capita abbastanza frequentemente di sentire dire le candele greche per alludere a qualcosa che non arriverà mai. Questo perché, diciamo a questo punto la ragione, perché nel calendario greco le calende non esistevano, esistevano in quello romano, ma non in quello greco. E quindi dire che... Ma le candele invece esistevano anche in Grecia, per cui questo non significa, il senso non sarebbe perso completamente. Visto che ci avviciniamo alla fine delle vacanze, siamo ormai alla fine di agosto, diciamo che molti riprenderanno il solito tram. Eh sì, ecco, invece il tram lo riprenderanno per andare a lavorare, però quello è il tran, con la N di Napoli. È una voce onomatopeica ed è un'espressione imitativa del movimento lento e regolare di un veicolo, di una macchina o appunto di un tram. Il tran è diventato anche un modo per alludere all'andamento di vita, al ritmo di lavoro lento, monotono. Però ecco, diciamo, spezziamo per una volta una lancia a favore di chi dice tram e non tran. Sì. Col fatto che spesso tramvai e tranvai, per indicare il mezzo di trasporto elettrico che va su binari alternano tra di loro, si tratta di un adattamento dall'inglese tramway, per cui la M si lega proprio all'origine anglofona del termine. Proprio per questa ragione diciamo che è meno malapropismo rispetto agli altri, è meno errore. Altri errori, adesso vado veramente ad attingere a quelli che mi sono stati segnalati dagli utenti e che spesso ho trovato veramente veramente belli. Mi si sono accapponati i nervi fare glassare su un argomento. Però accapponati i nervi ha il senso come la pelle d'oca, no? Sì. Il senso, quindi sono accapponati, ecco, quello è un po' sì, ma infatti il malapropismo, ogni tipo di malapropismo si caratterizza per il fatto che una ragione logica, comunque, esattamente, diciamo che è una reinterpretazione forzata del parlante che, o come fa nella paretimologia di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, cioè tende a restituire alla parola la forma che reputa adatta, quindi o per questa ragione oppure perché si basa sugli effetti della memoria, inverte l'ordine di successione dei suoni o comunque modifica alcuni dei suoni della parola, ottenendo parole plausibili che però corrette non sono. È come il polistirolo al posto di colesterolo nel caso di o il polistirolo alto, o fare il terzo incognito, imputare una gamba, oppure se alcuni, guarda, in un ospedale un'amica mi ha segnalato di aver sentito dell'esportazione dell'utero oppure della schiena dorsale, oppure nel frattempo mi senti così esitante perché in realtà sto scorrendo i più di 300 malapropismi che sono stati segnalati dagli utenti dopo la tua puntata della scorsa primavera. Le stanno facendo sempre da un ospedale, questa volta da un'amica che vive in Olanda e che via Facebook, però avendo sentito la puntata, lo ha scritto, le stanno facendo una cura di bracobaldo. Era una cura di cobalto, certo. Ed è diventata una cura di bracobaldo. Una cura divertente almeno, quantomeno sicuramente. Può avere quell'esito, quell'effetto. Un medico, invece direttamente un medico, mi ha raccontato inavvertitamente dopo aver ricollegato il mio nome durante una visita al riposo del guerriero, che... Un suo paziente sosteneva di avere i tre criceti alti per i, per i trigliceridi. Un'ascoltatrice Claudia lo ha segnalato, appunto andando a corroborare quello che il medico stesso aveva sentito di prima mano. Ecco, io vorrei poi capire, secondo te, se sono un po' costruiti oppure se oppure malapropismi, giusto, si chiamano, ecco. Se sono un po' costruiti oppure nascono veramente così, magari, cioè, a volte mi sembra quasi che siano pensati, no? Se è proprio un modo per fare una battuta, pur sapendo invece la parola corretta come sarebbe. Sono costruibili. La risposta è che sono costruibili. Sì. Infatti i comici li costruiscono anche laddove, anzi risultano vincenti laddove riescono a costruirli al di là di quello che potrebbe fare il parlante insomma, non comico, non linguista, che non ha grande dimestichezza con la lingua. Questi qui, quelli che ho raccolto, credo che in buona parte siano autentici, perché provengono da persone che dopo aver capito che si tratta di un fenomeno che viene anche spiegato dai linguisti, quindi anche è un fenomeno di creazione, che poi porti a creazioni corrette o meno è un altro discorso, però è un fenomeno di creazione in piena regola. Ecco, scusami, c'è un malapropismo, ti risulta, pure no, perché non l'hai neanche, non hai studiato, perché è una cosa anche complessa, che alla fine è diventato la parola che ha sostituito quindi quella che era in origine? Sì, ed è una parola che usiamo tutti i giorni. Periculum inizialmente in latino significava prova, esperimento, non aveva nulla a che fare con il rischio, soltanto che periculum alle orecchie di un parlante latino subiva l'influsso, l'interferenza di perire, che significa morire. Andare in rovina, e quindi questo ha portato periculum a perdere completamente il significato originario e a significare un qualcosa che ti mette a rischio di morte. Ecco, quindi vuol dire che in un futuro magari noi potremo essere amici indici, appunto. Perché, e comunque chiudo io con un altro, non so se è un malapropismo, ma ti faccio forse sorridere, spero anche gli ascoltatori. Durante un'intervista in una radio avevo un certo, attenzione signor Rizzi al telefono, allora io, siccome era romagnolo e quindi aveva la Z, no? Sì. Gli ho detto, mi tolgo una curiosità, ma lei è il signor Ricci con la C o Rizzi con la Z? E lui un po' così anche scocciato mi risponde dicendo, ma Rizzi come i capelli, Rizzi. Ecco, ma risposto così, io non sapevo cosa dire a quel punto. Io ho detto va bene, ok, allora ci siamo capiti. Beh, quindi non so se è un malapropismo, però in effetti poi anche magari così il dialetto ci mette del suo e fa cambiare. Beh, sì, spezziamo un'arancia a favore del signor Rizzi. E facciamolo, magari beviamocela quell'arancia, spezziamola e poi la spremiamo e ci facciamo una spremuta d'arancia. Grazie Francesca, anche grazie per questa voi. Domenica ci sentiremo la prossima con una puntata sempre dedicata alla lingua italiana con te e a una parola che si sente veramente molto in questo periodo, non soltanto legata all'estate, che è esodo. Ciao Francesca Tragotto, grazie, buona domenica. Il riposo del guerriero. E anche nella versione estiva del riposo del guerriero è arrivato il momento del nostro gastronauta. Il gastronauta. Oggi Davide Paolini è arrivato con tanto di secchiello e ghiaccio. Ciao Davide, buongiorno. Sì, ho anche un bellissimo calice, perché poi stapperemo tutte queste bottiglie che mi sono portato, ne ho portate ben 10. E ho messo anche il rosso in ghiaccio perché, ecco, perché tu io ami vado questa contro... cosa, sì. E io ti seguo a ruota. Poi appena hai detto tu mi sono sentito anche meglio, perché dico l'ha detto a Davide, quindi non mi guardavo neanche più male. Ma ti dirò che io anche d'inverno, ad esempio, il lambrusco, sì, lo servo freddo, perché non vedrei altrimenti. Il lambrusco è perfetto, specialmente oggi quello ottenuto appunto con il metodo classico, con il metodo Charmat, secondo me è perfetto, perché ci sono certe bollicine che devono essere servite, non dico fredde, non dico a 8-10 gradi, però sicuramente 12-14 gradi fresche. Sì. Chi ha una cantina bellissima, diciamo a temperatura ambiente, quella non che si intendeva una volta, no, la temperatura ambiente che si intendeva una volta delle case fresche. Oggi la temperatura ambiente in un appartamento è 18 gradi, se si serve oggi un vino a 18 gradi sicuramente si beve del vin brûlé. E devo dire che molti produttori di vino continuano a commettere questo errore, perché se tu guardi nella retroetichetta c'è scritto servire a temperatura ambiente, ma qual è la temperatura ambiente? Certo, non ha senso, bisogna mettere i gradi. E sono tanti i vini che vanno serviti freschi. Ad esempio, io ho il Pinot Nero, confesso di amare molto il Pinot Nero. Se non è fresco, io il Pinot Nero non lo gradisco, non riesco a gradirlo. E ti dirò che c'è un grande, grandissimo enologo, forse uno dei più grandi nasi al mondo, non dico d'Italia, che lo è stato per tanti anni, che si chiama Giorgio Grai. Un giorno mi ha insegnato un trucco per usare meno bicchieri a casa. Lui mi diceva, se tu hai tanti ospiti, sì, e non hai tanti bicchieri, sì, ti insegno il sistema. E allora mi diceva, tu lo stesso vino lo servi a a temperature diverse. E lui mi diceva, il Lagrein, per esempio, lo servi molto ghiacciato sull'antipasto. Poi pian piano sali, arrivi fino a 16-18 gradi, e quindi il bicchiere è lo stesso, non c'è bisogno di cambiarlo perché il vino è lo stesso. Tu con la stessa bottiglia fai completamente una cena o un pranzo, sì, usando le temperature del frigorifero, e usando le temperature del frigorifero e anche fuori, perché, certo, l'ultima, perché man mano si scalda comunque, certo. E quindi se sei in 8 usi 8 bicchieri e non 34, certo. Quindi secondo me è un sistema straordinario di usare appunto le temperature. Allora torniamo ai vini, così ormai siamo quasi alla fine dell'estate, però ecco, i vini d'estate ancora giusti per questo periodo. Ma sai, i vini giusti, come ho detto, per me il Pinot Nero va bene, va benissimo col pesce. Io devo dire che, tra l'altro, io amo il pesce con il vino rosso. Ora qualcuno dirà, non esageriamo, certo, che se mangio una sogliola alla Mugnaia non posso accostarci un Barolo. Sono d'accordo. E poi sicuramente amo anche i vini bianchi, quindi perché no, ci posso mettere un vino bianco. Però tutti, diciamo, i pesci che vengono conditi con, ad esempio, sono preparati col pomodoro, sì, a me piace moltissimo usare dei vini rossi, così pure anche altri pesci, ad esempio il pesce azzurro, io lo amo molto col vino rosso. Secondo me l'abbinamento per il tonno è sempre un vino rosso, non è mai un vino bianco. Tra l'altro i pescatori dell'Adriatico mi hanno sempre insegnato che quando non c'erano ancora le etichette, non c'erano, per così dire, tantissime scelte per i vini, loro il fritto di pesce che mangiavano, il pesce dell'Adriatico, quindi pesce azzurro, l'hanno sempre bevuto con un vino casereccio, che probabilmente era il Sangiovese, perché in quelle zone lì c'è il Sangiovese. Quindi io lo vedo anche con il pesce un accostamento interessante. Ad esempio il Bardolino è un vino che contiene poco tannino ed è perfetto per essere mangiare con il pesce. L'altro è il dolce acqua, un prodotto ligure che si chiama il vino di dolce acqua. Ora mi sfugge, lo dirò poi dopo. Quindi anche quello secondo me è un vino che si abbina perfettamente. Hai citato il Bardolino, mi viene in mente il Chiaretto Bardolino anche. Beh, ora c'è un grande revival del Chiaretto, perché probabilmente è fatto con maggior cura e maggior attenzione del passato. Quindi anche il Chiaretto è il grande momento dei rosati. Sì. Dei rosati, io però lo vedo molto più un grande momento delle bollicine rosé, perché credo che ancora nella mentalità del consumatore il rosato sia visto come un qualcosa di mezzo, quando si dice né carne né, sì, pesce. Ma non è così, l'abbiamo detto tante volte, continuiamo a dirlo. No, il rosato non è una via di mezzo. No, dicevo una via di mezzo, no, non tanto capito sulla preparazione. No, certo, no, dico una via di mezzo proprio dal punto di vista del gusto, del vino, di quello intendo dire. Io vedo, ma più che altro dalla scelta, perché io vedo molte volte ai tavoli non che c'è discussione. Cosa fare, rosato, abbiamo risolto. Ma non è così, perché il rosato ha delle caratteristiche sue peculiari. Sì. Voglio aggiungere che non vedo degli straordinari rosati in questo paese come vino, mentre vedo degli straordinari rosé come bollicine. Sì. Però non posso negare che la Puglia sta crescendo veramente notevolmente. Anzi, la Puglia è stata la culla dei rosé. Ci sono alcuni produttori storici della Puglia che hanno continuato a produrre dei grandissimi rosé e lo continuano ancora, e sono da 25 anni o da 30 anni che sono sulla breccia, quindi ci sono. Però ho visto che in molte parti del paese, insomma, molti produttori che non avevano mai fatto rosato, probabilmente visto le tendenze, io credo che sia una tendenza degli anni passati, e io non sarei così ottimista sul futuro. Credo che, insomma, diciamo che quando la tendenza sta arrivando in cima, probabilmente bisogna stare attenti, perché è passata la moda, è diventato tendenza, poi c'è il rischio del crollo. Quindi, certo. Mentre le bollicine rosé, i francesi ci insegnano già dall'inizio della produzione dello champagne, sì, esistevano dei rosé, quindi non è che lo fanno da ieri. l'hanno sempre fatto, e i rosé, ci sono dei champagne rosé che a me gustano molto. Ecco, facciamo un po' una distinzione di bollicine. Per esempio, mi viene in mente il prosecco, il metodo classico, lo champagne e le loro differenze. Ecco. Sul rosé? No, no, anche sul bianco. Ma devo dire normale. Che il prosecco oggi è un vino che sta andando tantissimo, specialmente all'estero, forse è il vino italiano che oggi funziona meglio. Il rosé io lo vedo molto come aperitivo, lo vedo molto come sugli appetizer, lo vedo molto, diciamo, mentre si attende di mangiare, e accostato, non so, al parmigiano o ad altre cose. Quindi non lo vedi a tutto pasto, è un ingresso, diciamo. Ci sono dei prosecchi che sono lavorati col metodo classico, e quindi questi possono essere sicuramente a tutto pasto. E devo dire che, diciamo, le bollicine italiane, ora dico bollicine, il mio amico Zanella ha bandito questa parola per il Franciacorta, bollicine, sì. Giustamente dice Franciacorta di OCG. Franciacorta di OCG è, diciamo, è quello che è cresciuto di più negli anni, e molti Franciacorta di OCG io li vedo molto bene come tutto pasto. Ecco, tutti i Franciacorta di OCG sono rigorosamente metodo classico? Esattamente. È un sinonimo, no? Ormai, quando tu chiami appunto Franciacorta di OCG è obbligatorio. Sicuramente il metodo Charmat lo trovi sul Prosecco e lo trovi su moltissimi spumanti. Molti spumanti sono prodotti col metodo Charmat, quindi sicuramente c'è una differenza sostanziale, c'è una differenza di gusto, c'è una differenza di produzione, c'è una differenza di prezzo, sì. Perché un metodo classico ha anni, ci vogliono anni, lo certo. Charmat è molto più veloce. Dicevo che quindi diciamo il Franciacorta come il Trento classico, sì, ma certo. Ci sono moltissime bollicine italiane che sono prodotte col metodo classico, che non sono né a Trento né in Franciacorta, ma sono in giro sì. Per l'Italia. Sono in Sicilia piuttosto che in altre regioni d'Italia, possono essere in Puglia, da altre parti. Quindi sicuramente il metodo classico è un metodo molto diffuso. Io molti prodotti di metodo classico le vedo a tutto pasto. Ancor più io tutto pasto vedo lo champagne. Vedo lo champagne perché secondo me è diverso. È diverso dal Franciacorta di OCG, è diverso dal Trento DOC, è diverso dal Croisé dell'Oltrepò Pavese, è diverso da molti metodi classici piemontesi, insomma è diverso. Beh, le uve cambiano completamente. Le comunque, uve, beh, non è vero. Non è detto. Non è vero. Tu hai detto una cosa che io devo precisare perché sì. È la cosa fondamentale. Cambia il territorio. Certo. Perché tutto sommato, quasi molto spesso, l'uvaggio è lo stesso dello champagne. C'è Pinot Noir, c'è Pinot Meunier e c'è Chardonnay. Magari in Italia non c'è il Pinot Meunier, ma sicuramente ci sono altre cose. Però diciamo che lo Chardonnay e il Pinot sono quasi ovunque. Ci sono stati dei tentativi, ad esempio in Campania, ci sono stati tentativi di fare diciamo degli spumanti metodo classico con delle uve autoctone, con risultati più o meno riusciti. Bene, grazie Davide. A questo punto però dobbiamo stappare le bottiglie. Sì, stappiamo le bottiglie perché la gola è venuta a sete. Ma tu cosa vuoi che stappi? Ma guarda, uno champagne va benissimo, anche se io sono un filo metodo classico perché tengo all'Italia, è solo io sono bianco, rosso e verde nell'animo. Il cioè, metodo classico c'è anche in Francia, attenzione. Quindi, però italiano rigorosamente. Metodo classico allora, italiano. Va bene. E rosé va benissimo, concordo. Bene, io aprirei uno champagne rosé. Va bene, assaggio. A domenica d'accordo. Prossima, ciao Davide. Il riposo del guerriero. E nel riposo del guerriero siamo arrivati allo spazio dedicato ai viaggi, e lo facciamo cercando di scoprire nel vero senso della parola Roma. Gabriella Serio, buona domenica. Buona domenica. Abbiamo a che fare con una vera archeologa, no? Tu sei specializzata in archeologia classica. Allora, Gabriella, tu ci farai scoprire curiosità e segreti di Roma, anche perché hai pubblicato un libro con Newton Compton con questo titolo. Perché Roma è ricchissima di cose da guardare, da scoprire, e come dici tu, sono talmente tante e spesso non si ha il tempo di approfondire. Sì, assolutamente sì. Io vivo a Roma da una vita e mi stupisco sempre di scoprire nuove cose, non si finisce mai di osservare e di scoprire cose nuove. Ecco. Ecco, al posto di portarsi a casa i San Pietrini, come qualcuno purtroppo sta facendo in questo periodo, e qualche turista anche, cercate di lasciarli lì e capire magari perché ci sono e perché sono stati messi e quando, forse è molto più interessante che portarseli a casa. Allora, che cosa ci racconti? Cerchiamo qualcuna di queste curiosità. Beh, ad esempio, ecco, sul fatto di portarsi a casa strani souvenir, curiosi souvenir come i San Pietrini, ad esempio, durante le mie ricerche ho scoperto addirittura che c'è stato chi ha provato a portarsi via il Pulcin della Minerva, che è questa statua molto famosa che ritrae un elefantino con sopra un obelisco in Piazza della Minerva, fatta dal Bernini, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale un generale americano se n'era innamorato e ha provato a smontarsela, e ha mandato un camion con tutti quanti gli operai a provare a portarla via. Per fortuna il portiere di uno stabile se n'è accorto, ha dato l'allarme, per cui ecco, cioè, tra i souvenir oppure altri souvenir che provano a portare via, i nasoni, le celebre fontanelle in ghisa che punteggiano tutte le strade di Roma, tutti i quartieri di Roma, sì, anche quella ogni tanto è capitato che se li portassero via. Questo, insomma, sono tante cose che emergono da questo libro che ho scritto. Ecco, cerchiamo invece di capire perché ci sono, no? Che è molto più interessante, e magari lasciarli anche lì dove sono, perché certo, direi che è fondamentale. Allora, qualche curiosità, tu ne citi qualcuna, dici sono molti orologi con soltanto 6 ore e una lancetta, ma perché? Punto di domanda. Certo, esatto. Allora, sono molti orologi, sono ad esempio sulla torre del Quirinale, c'è un orologio che segna all'indicazione delle 6 ore, non della classica indicazione a 12, perché fino a poco tempo fa, fino alla metà dell'Ottocento, a Roma ancora e solo a Roma esisteva il sistema di computo delle ore cosiddetto appunto alla romana. Cioè, sistema un po' complicato che andava con il tramonto del sole alle 6 del pomeriggio e poi la messa, l'Ave Maria, ed era un sistema strettamente collegato alla vita quotidiana, insomma era importante la differenza tra il tramonto e il giorno, per cui il giorno finiva con il tramontare del sole. Diciamo alle 6 del pomeriggio canoniche era, corrispondeva un po' alla nostra mezzanotte. Mentre invece tutto il resto d'Europa aveva il computo alla francese, che è quello poi che abbiamo adottato anche noi finalmente un po' per ultimi alla metà dell'Ottocento, primi Novecento. Ecco, comunque sia, è assolutamente interpretabile, ecco, l'ora anche da chi non è abituato a vedere soltanto 6 numeri. Assolutamente. Poi cos'altro ci fai scoprire, Gabriella? Ad esempio, un'altra cosa interessante è di non dare per scontato nulla. Allora ci sono delle fontane che caratterizzano la città, come la fontana di Piazza Trilussa, che diciamo è l'arredo principale di questa piazza. Poi si viene a sapere che in realtà questa fontana sta lì da pochissimi anni, dalla fine dai primi anni del Novecento, quando vennero costruiti i muraglioni del Tevere, e la fontana venne sloggiata, proprio presa, smontata, sì, e rimontata da un'altra parte per appunto far posto alla costruzione dei muraglioni. In realtà si trovava su Via Giulia. Altre fontane, come ad esempio la fontana della Terrina a Piazza della Chiesa Nuova, stava a Piazza a Campo dei Fiori. Insomma, ci sono una serie di fontane che sono cosiddette le fontane itineranti, che hanno cambiato il loro luogo di origine, hanno migrato in altri punti. E questo, ecco, sono poi fontane che caratterizzano il nostro arredo, le nostre piazze. Altre cose. Ecco, qual è, ad esempio, fra le tante curiosità e segreti di Roma che hai individuato, non so, quella che in qualche modo più ti ha affascinato? Ad esempio, una che mi ha affascinato e che l'ho scoperto attraverso le mie amiche restauratrici è ad esempio questo drappo dipinto in onore di Pio IX, che è venuto fuori durante recenti restauri. Praticamente è un grande telo che venne esposto durante una processione in onore del Papa, di questo nuovo Papa appena eletto, che diciamo è una celebrazione, è una frase dedicata a Pio IX, ma in realtà è sotto forma di rebus. Per cui e tra l'altro si scopre anche che questo Papa era un appassionato di enigmistica, sì, per cui è stato da poco studiato e restaurato e oggi è esposto al Museo del Risorgimento, da poco anche il museo ha trovato da poco un nuovo interessante allestimento. Ecco, quindi insomma si potrà anche vedere e cercare di risolvere senza leggere ovviamente la spiegazione che l'accompagna. Quindi un viaggio, direi, fra leggende, aneddoti e molte storie di luoghi che anche i romani stessi conoscono, ma non in modo approfondito. Quindi curiosità e segreti di Roma, Newton Compton. Grazie Gabriella Serio, buona domenica ancora. Grazie a voi, buona domenica e grazie ancora. Allora, siamo stati a Roma e adesso, per chi volesse prendersi un volo e viaggiare in un'altra straordinaria città che ne racchiude in sé tantissime, almeno per quanto riguarda la popolazione, parliamo di New York in questo momento con Gianfranco Cordara. Ciao Gianfranco, buona domenica. Buona domenica a te. Gianfranco Cordara ha scritto 101 cose da fare a New York almeno una volta nella vita. Io direi che almeno una volta nella vita bisogna andare innanzitutto a New York, ecco, lo consiglio davvero. Anche se magari non vi affascina in modo particolare, poi vi affascinerà quando sarete lì, perché è una città che davvero fa sentire cittadini del mondo. C'è proprio tutto il mondo e lo vedi, no? Con le proprie usanze, i propri costumi, il proprio modo di esprimersi, ed è una cosa difficile anche da vedere nel nostro paese, pur incontrando popoli diversi, nazionalità differenti, ma il modo di vivere lì è molto diverso, ecco, quindi lo si nota molto di più. Quindi che cosa dobbiamo fare sicuramente a New York, Gianfranco? Ma allora direi che innanzitutto bisogna arrivare a New York e affrontare la città con la massima apertura mentale possibile, perché è una città che deve essere, come dire, affrontata in modo completamente aperto e pronti a ricevere tutto quello che New York è pronta a dare. Le cose che consiglio, secondo me, sono da una parte fare le esperienze classiche da turista, cioè tutto quello che è il nostro immaginario collettivo su New York va visto. Va visto perché il nostro immaginario collettivo arriva soprattutto dal cinema e noi ci immaginiamo che in qualche modo il cinema trasfiguri New York. Sì. E la prima esperienza che uno ha è invece di scoprire che New York è una città estremamente realistica per come viene rappresentata nel cinema. E quindi andare a Times Square o pattinare al Rockefeller Center è esattamente come si vede nei film. E bisogna farlo. È la prima cosa sconvolgente. Ecco, questo è molto vero, perché si ha sempre questo pregiudizio, no? In generale, molte volte si dice no, non faccio le cose che fanno i turisti. E invece ci sono città dove è necessario fare le cose che fanno i turisti. Per esempio, prendere l'elicottero per volare intorno ai grattacieli e vedere New York dall'alto è una cosa da fare, perché New York dall'alto è un altro modo di viverla e va vista anche così. Sbaglio? Sei d'accordo con me? Assolutamente, sono completamente d'accordo. Bisogna vedere tutto, bisogna fare la Statua della Libertà, bisogna andare sulla terrazza dell'Empire State Building. Bisogna andare a Times Square, bisogna andare a girare il cubo ad Astor Place. Tutte le classiche cose che uno si immagina di New York deve farle esattamente come se le immagina. E questo è proprio il primo approccio. E poi uno può incominciare a scoprire un po' la sua New York e trovare le sue strade, le sue cose e ritagliarsi la propria esperienza individuale. Ma il primo impatto deve essere proprio quello dell'immaginario. Ecco, quindi allora il primo giorno, i primi due giorni, diciamo, avete fatto i turisti nel vero senso della parola, quelli classici. E poi cosa possiamo andare a scoprire invece? Poi direi che una delle classiche cose che poco fanno uscire da Manhattan, soprattutto i turisti italiani pensano che New York finisca su quell'isola e che non ci sia nient'altro intorno. Invece New York è da scoprire anche fuori, negli altri quattro boroughs, e direi che una bella esperienza anche tranquilla è quella di andare a Brooklyn e di farsi magari una passeggiata a Williamsburg, che in questo momento è il quartiere più hip della città, quello più trendy, quello dove si trovano le cose più alternative, dai negozi di abiti usati ai ristoranti più interessanti, ed è, come dire, un'esperienza di New York molto diversa da quella di Fifth Avenue a Manhattan. Poi direi che andiamo sullo shopping, che è una, come dire, delle cose importanti da fare a New York, perché New York ovviamente ha negozi di ogni tipo. E due rapidi consigli. Uno, sicuramente andare a vedere il negozio di Fausch Schwarz, che è uno dei più grandi negozi di giocattoli del mondo e che è un'esperienza di per sé anche soltanto da visitare, anche senza comprare niente. È il negozio dove c'è il famoso piano su cui Big Tom Hanks saltella suonando, per dire, ed è un negozio sterminato in cui si trovano giocattoli di cui nessuno può pensare all'esistenza. Ecco, magari non andate con i bambini, perché non peraltro, perché poi la carta del credito lì serve e sì, lì finisce più che altro. Esatto, sì. E l'altra cosa, che è uno dei miei posti preferiti di New York, è una libreria, lo Strand, sì, che trova Union Square, che è una libreria di libri usati, molto antica, nata a inizio Novecento, che si vanta di avere 18.000 di libri, ed è effettivamente un mondo sterminato di libri usati, organizzato e, come dire, perfettamente, con tutti i libri in ordine, divisi per categoria, per titolo, per autore, e dà quel sapore, quel profumo da vecchia libreria di libri usati che nelle grandi catene non si riesce a provare. Ed è un piacere anche soltanto vedere la gente che va in quella libreria a cercare dei libri, si trovano delle cose assolutamente incredibili per chi è appassionato di lettura. Ecco, come dicevo prima, la multietnia si respira tantissimo a New York. C'è in questo senso un luogo dove consigli di andare assolutamente per respirarla ancora di più? Ma direi di sì. C'è la classica Chinatown, dove ovviamente tutti vanno da Canal Street a vedere i negozi e come si dice, i ristoranti, però c'è intorno alla 30ª strada c'è Koreatown, sono due piccole strade, sì, e secondo me sono uno spaccato di mondo completamente diverso, anche perché la Corea non è magari un mondo che abbiamo e che frequentiamo in Italia ormai quanto, voglio dire, il mondo cinese, ma è particolarissimo, ci sono ristoranti e negozi estremamente interessanti ed è un piccolo mondo isolato da tutto il resto. Ecco, quindi se volete scoprire davvero New York, 101 cose da fare a New York almeno una volta nella vita. Grazie Gianfranco Cordara, buona domenica. Grazie a te, ciao. Il riposo del guerriero. Riposo del guerriero, ultima parte dedicata al mondo astrologico insieme ad Antonio Capitani, che saluto. Ciao, ciao Antonio. Ciao, buona domenica. Allora, siccome molti avranno fatto conoscenze o le stanno per fare, uno degli argomenti sono sicuramente l'astrologia, perché è un po' un modo per conoscere. Come no? No? Ecco, la famosa domanda di che segno sei? Sei. E immancabilmente le persone fanno un po' finta di sapere, oppure pensano di sapere, ma in realtà non sanno. Allora cerchiamo un po' di così aiutare i nostri ascoltatori a magari conoscere un po' meglio. Io comincerei, certo, dalla critica, guarda, da una cosa che forse avremmo lasciato per ultima, invece la farei per prima, ovvero la critica che si fa agli astrologi che sbagliano le previsioni. Ecco. Ma guarda, allora, l'astrologo è un professionista come tutti gli altri, quindi come tutti coloro i quali lavorano può sbagliare. Nessuno ha mai detto che gli astrologi, tantomeno noi astrologi stessi, abbiamo mai detto di avere in tasca la patente di onnipotenza. Quindi sbaglia il prete sull'altare, sbaglia l'idraulico, sbaglia l'ingegnere, sbaglia il cassamortaro nel prendere le misure del cadavere, sbagliamo anche noi, quindi non vedo perché si debba fare la lista degli errori degli astrologi. Nessuno di noi è infallibile, noi siamo... Non essere così indulgente però, no, perché no, nel senso che gli astrologi con, diciamo così, la pretesa, no, di sapere come andranno le cose, ecco, sì... Ma sai, certo, io dico sempre che spesso il danno peggiore all'astrologia lo fanno gli astrologi stessi, proprio con il loro modo di porsi e di fare. Io ho letto anche delle interviste di titolatissimi colleghi che dicevano: io non ho mai sbagliato una previsione. È impossibile. Sembra, certo, una fanfaronata colossale. Però sbagliare, cosa vuoi che ti dica? Sbagliamo tutti, certo. Certo, ma partiamo da un presupposto, no? Che è questo. Se insomma, noi, sicuramente non se, noi facciamo parte di un microcosmo, e cioè noi siamo un microcosmo e parte di un macrocosmo. Certo. Tutto ha una certa armonia, quindi possiamo pensare che se tutto ciò che è intorno a noi gira è disarmonico, automaticamente questa disarmonia così, certamente diventa, si riflette un po' anche nostra, dentro di noi, e si riflette anche all'esterno di noi, quindi nelle circostanze della nostra quotidianità e viceversa. Sai, l'astrologia io amo definirla una delle leggi dell'universo. È una legge dell'universo come la legge dell'attrazione, sono quelle leggi che ancora non siamo stati nessuno capaci di ricondurre, e apro una parentesi, e servirebbe, chiusa parentesi, a una formula matematica o trigonometrica, o non è certo una di quelle discipline che si può assoggettare ad esperimenti di laboratorio che producono sempre i soliti risultati. Ecco, questo non è, no, ecco, non è replicabile, no, in questo non è replicabile, senso, ecco. Però è una legge dell'universo che funziona malgrado il CICAP, malgrado gli astrologi stessi, come dicevamo, malgrado i malfidenti, malgrado chiunque. I transiti, i movimenti planetari ci sono, e ogni movimento movimento planetario corrisponde uno stato d'animo, un evento, ma non c'è rapporto di causalità, è solo un'analogia che c'è fra il sopra e il sotto, come dicevi. Esatto, per cui se crediamo a questo, sì, quindi possiamo avvicinarci, sì, un pochino anche alla pratica astrologica. Sì. Allora, ci sono belle domande, io comincerei dei pregiudizi, perché la domanda è: che segno sei? Risposta: sono dei gemelli. Ah. L'altro, allora sei doppio, che non significa niente. No, infatti. Ecco, prima del sei doppio c'è sempre quel sospeso, certo, sì, no? Sì. Ah, che può voler dire qualunque cosa. Non mi posso fidare perché sono sei dello doppio. Scorpione. Ah. No, sono questi luoghi comuni che vanno sfatati. Non è vero, per esempio, che il gemelli è un segno doppio, ma che può forse racchiudere una doppia natura, nel senso che può essere tanto giamburrascoso, pierinesco, chiambrettoso, e allo stesso tempo può essere filosofo, può essere introspettivo, può essere... È una mia ricerca, la doppiezza del gemelli deriva semplicemente dal fatto che il suo simbolo è il 2 romano, il per due cui romano fondamentalmente anche, certo, arriva un po' da lì, ecco, perché no? Poi tutti abbiamo il rovescio della medaglia, no? Tutti noi quindi in questo, sì, senso siamo, sì, doppi. Certo. Ecco. Il gemelli in modo particolare è un po' castore, un po' polluce, quindi un po' immortale, un po' mortale, quindi se vogliamo andare a fare dei riferimenti mitologici, però ecco, non è vero che il gemelli sia è inaffidabile, ecco, oppure in questo superficiale, senso, perché ripeto, di fronte al giamburrasca poi troviamo, insomma, Sartre era un gemelli, è scritto la nausea, quindi poi non mi pare una roba tanto spensierata. Quando invece chiedete di che segno sei e non trovate risposta, ma tipo, ma che bella giornata oggi, vuol dire che avete a che fare con una persona del segno della Vergine, che è una cosa... Perché i virginiani non hanno mai coraggio? Ma non lo so, di perché forse sono degli insicuri, forse perché non amano definirsi con questo nome, che insomma è sempre... Ecco, no, ma anche perché il pregiudizio che lega al segno della Vergine è: ah, allora sei pedante, metodico, noioso, eccetera. Io conosco delle vergini che hanno dei cassetti che sono la Seconda Guerra Mondiale. Puoi vedere la mia l'ordine casa. Proprio non esiste. Quindi sfatiamoli questi luoghi comuni che vorrebbero la Vergine sempre con tutto a postino, con lo sgrassatore e lo straccio in mano, sempre pronto lì a lustrare tavoli, vetri e suppelletti. Ci sono persone molto disponibili sulle, sì, quali si può contare. E non, ecco, si parla mai abbastanza del senso dell'ironia della Vergine. Che ne, mi piace, ne ha molto. E tra l'altro l'apprezza, no, anche molto. Molto, sì, British, poi mi piace molto. Poi altri pregiudizi. Beh, insomma, un leone dirà sempre fieramente di essere un leone. Perché il mio è il segno migliore dello zodiaco. E quindi è un leone o un sagittario. Spesso anche il sagittario lo dice. Ecco, non è vero, perché non ce ne sono migliore, no, in assoluto. No, no, ecco, ogni segno ha i propri difetti e i propri pregi. Ecco. Bisogna vedere quali sono i pregi e quali sono i difetti. Poi ancora dei pregiudizi. È il scorpione, che è vendicativo, è rotomane. Ma guarda, allora, lo scorpione sì che possa essere un po' vendicativo, ci sta, che sia erotomane, io metto un grosso punto interrogativo, perché lo scorpione è il segno del sesso, ma è anche il segno dei problemi col sesso molto spesso. Quindi non è detto che tutti gli scorpioni siano sempre lì a ragionare, a lavorare, a vivere la propria vita quotidiana con gli organi genitali, perché non è vero. Spesso questa zona, diciamo così, a sud dell'ombelico non è proprio così tanto... Sono solo pregiudizi. Sono pregiudizi. Ecco, un segno di cui non sa mai niente è il capricorno. Quando tu chiedi che segno sei il capricorno, e cambi discorso perché non sai che cosa dire. Te ne dico un'altra. Quando tu tenti di indovinare un segno, che sbagli non si il fa primo... Mai, no. Ecco. Sbagli il primo tentativo, il secondo, il terzo, al quarto vai sul sicuro, dici acquario e hai indovinato. Perché l'acquario sfugge a qualsiasi tipo di definizione, classificazione. E quindi funziona. Perché il capricorno non sa mai che cosa dire, secondo te? Bah, cioè io parlo di non astrologi, parlo delle chiacchierate sotto l'ombrellone, attenzione. Infatti, ma il capricorno, dicono, insomma, la cosa che forse dice chiunque è che è un po' torvo, che è un po' cupo, che è un po' rigido, impenetrabile, no? Sì. Ecco, sì. Però insomma non è sempre vero, ecco. E spieghiamo questo ascendente, perché subito la domanda: ah, che segno sei? No, magari tu dici Vergine e allora è questa risposta. Allora subito l'altra persona che te l'ha chiesto per cercare di riprendere il discorso: però... che segno, però che ascendente hai? Ecco. Guarda, l'ascendente in realtà la nostra maschera, sono le sembianze, l'apparenza, è come ci vedono gli altri nostro malgrado, quindi un po' la nostra superficie. Il segno zodiacale sotto il quale siamo nati rappresenta la nostra sostanza, quindi l'impalcatura di base della nostra personalità, l'impalcatura psicologica, intendo dire. Mentre l'ascendente è il biglietto da visita che noi ci spendiamo nell'immediato. Sì. Quindi come ci mostriamo? Come, insomma, ci mostriamo? Come, la maschera, ci vedono, no? Come ci vedono? Quindi a volte può capitare che noi conosciamo una persona che d'impatto ci sembra tanto simpatica, perché magari è un ascendente brillante o in un segno che è affine al nostro. Magari dopo 10 minuti che ci parliamo diciamo, ma guarda che fetente. Che cantonata che ho preso. Che cantonata, perché allora lì poi emerge la reale natura che è data dal segno zodiacale, ma anche viceversa. Cioè, ma quanto mi stava sugli Zebedei quella appena... Invece, esatto. E invece guarda che persona gradevole e piacevole che è. Quindi spesso l'ascendente... Ecco, infatti inganna. Diciamo che l'impatto che si ha quando qualcuno tenta di indovinare il segno, non fatelo sì. mai, ma ci sarà sempre chi lo farà, ecco, è quello il segno che vedrete, percepirete, molto probabile sia il segno ascendente, certo, piuttosto certo. che il segno dello zodiaco. Poi se uno è all'ascendente nello stesso segno di nascita, e allora voi come lo vedete fuori è anche dentro, quindi non ci sono sovrastrutture. E quindi posso riferire un altro luogo comune, come no? Molto sì, rapidamente? Certo, sì. È il fatto che tutti quanti in astrologia sono un po' come dei CT quando gioca la nazionale, no? Per aver conosciuto un cancro magari nella loro vita, che magari era pure anche quello un fetente, tutti dicono: ah, sei un cancro, sei fetente, sei... perché ne hanno conosciuto? Quello, no, ecco, devo dire, quello è il pregiudizio più grande. Di tutti, terribile. Cioè di unire le caratteristiche astrologiche dei loro segni alle persone che conosciamo. Sì, ecco. Siccome ogni persona in realtà è un insieme di tutti tanti, i segni dello certo. zodiaco e quindi di tante cose, non esiste questa unicità. Giusto, quindi non saltate a conclusioni affrettate. No, ecco, lo dico per le persone che magari si sono separate, no? Allontanate da un affetto, quindi con grande dolore, dovessero conoscere qualcuno ancora con quel segno, non partite col piede sbagliato dicendo: ah no, già è andata male con era. Esatto, così non adesso è questo. Anche... No, non fatelo. Questo è uno dei luoghi comuni più terribili. Perché ogni persona è a sé. Vero? Quindi, sì. No, esattamente. Poi ci sono delle caratteristiche un po' comuni, però non è quella del vostro vicino di casa. No, ecco, bravo, giusto. Spieghiamo quindi... così. Allora, più informazioni, se avete curiosità e anche seguire le pubblicazioni di Antonio, c'è capitanimiocapitani.com, è il suo sito, andate a visitarlo e così potrete anche sapere come andrà l'altra parte del vostro anno. Perché ci non sono solo, anche ma ci sono tanti, devo dire, contenuti ottenuti gratuiti e si possono anche scoprire, non so, i gusti culinari dei segni, i rapporti di coppia, ci sono tante cose sfiziose da per leggere. Me è facile, a me piace qualunque cosa, basta mangiare. Grazie a tutti, sei una vergine. Grazie a Antonio Capitani, capitanimiocapitani.com, e grazie a voi ovviamente, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Buona settimana da Stefano Gallarini.